I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. In queste ore abbiamo ripetuto giustamente che noi europei siamo tutti belgi, perché l'orrore che ha devastato Bruxelles è un orrore che devasta, è una tragedia, oltre che un orrore che devasta noi europei, i nostri diritti, la nostra civiltà e tutto ciò che faticosamente abbiamo guadagnato in questi decenni, se non secoli. Purtroppo però il Belgio è una fotografia e rappresenta l'Europa anche per un altro aspetto che vorremmo invece rimuovere. Mi riferisco alla pletora di polizie e servizi di informazione presenti in Belgio. Erano fino a poco tempo fa 19 corpi di polizia, ridotti solo recentemente a 6, ma comunque malati di incomunicabilità tra di loro. Il Belgio rappresenta infatti un'Europa dove ancora si stenta a far decollare una vera integrazione tra servizi di sicurezza, servizi di polizia e scambio di informazioni, e il tema non è di carattere tanto economico. È ancora infatti sul tavolo e aspetta di essere definito il famoso PNR, il registro europeo dei passeggeri aerei, ritenuto non solo dagli americani uno strumento di lotta decisivo contro il terrorismo. Così come è ancora sul tavolo e aspetta di essere concretizzata la famosa politica europea integrata su una sicurezza comune. Troppi personalismi, troppi distinguo, troppe divergenze. Insomma, un'Europa malata di troppe identità e di troppe facce, che in questo modo ha difficoltà ad affrontare chi di faccia ne ha una e una sola: quella del terrore, quella del crimine. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della più grande azienda di telecomunicazione italiana, l'ex monopolista Telecom Italia. L'uscita dell'amministratore delegato Patuano, il possibile arrivo di un nuovo manager italiano o straniero, ancora non è chiaro, ma probabilmente sarà italiano, stanno segnando un po' uno spartiacque fra il passato e il futuro di un gruppo a cui è ancora affidato il importante compito di dotare l'Italia di una rete di telecomunicazioni ad alta velocità, in modo da proiettare imprese e famiglie veramente in un piano di competitività e soprattutto di aderenza a quelli che sono i trend del mondo. Al di là delle chiacchiere, quello di cui ha bisogno la compagnia di telecomunicazioni è sicuramente di un manager in grado di ristrutturare il gruppo, tagliare i costi e riportare soprattutto la struttura su un binario di produttività e di capacità di generare reddito. Qui non serve in questo momento un Bill Gates o uno Steve Jobs all'italiana. Quello che serve è un manager in grado di vedere, di avere una visione di quella che sono le dimensioni del gruppo in funzione dei suoi progetti di sviluppo, in modo da gettare le basi perché in pochi anni, se non a una nuova rete in fibra ottica nazionale, si arrivi quantomeno ad avere una società che dopo la ristrutturazione crei occupazione e soprattutto valore non solo per gli azionisti ma anche per il paese. Sul prossimo manager, a seconda della scelta che si farà, bisognerà prestare attenzione a due cose. Uno, ai rapporti con il governo. Sarà cioè un manager accomodante nei confronti delle esigenze dell'esecutivo o sarà un manager attento alle esigenze degli azionisti? Il secondo, sono le sue caratteristiche del passato. Ha prodotto valore? Ha ristrutturato? È stato capace di tagliare i costi? Tutto ciò non per avere una società soltanto che crea più reddito, ma ripetiamo, una società in grado di creare occupazione e valore. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.